Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove come sempre in diretta il villaggio, il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E poi nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp. Se volete tenerci compagnia, c'è anche il mio account di Twitter, che è @MartaCagnola. Ho appena visto una orribile foto che ha twittato l'account di Radio 24, perché mi hanno fatto un agguato orora con il nostro primo ospite, un agguato struccata. Vabbè, se siete pronti a spaventarvi, andate sul mio account di Twitter o quello di Radio 24, va bene così. Ma di cosa parleremo nella prima ora del sabato del villaggio? Beh, l'appuntamento con le tecnologie insieme a Enrico Pagliarini. Parliamo di cose da avere per la nuova stagione, le tendenze dell'estate con il nostro gastronauta, poi come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana, e poi ve l'ho detto, partiamo con un ospite, un amico di Radio 24 che questa volta ha deciso di raccontarci proprio tutto. Non c'è più quel club, ora non si suona più, c'è una banca nuova. Morirò con la faccia al vento, morirò mai contento, soddisfatto mai. Titola Sono stato più cattivo. Nelle autobiografie si cerca sempre di giustificarsi, di sembrare buoni, di dare così un tono alle cose che abbiamo fatto durante la vita. Invece lui ha scritto un'autobiografia nella quale racconta tutte le volte in cui è stato cattivo. Lo è stato più di una volta, ma io mi sono divertita un sacco a leggerla, quindi ci tenevo che fosse con noi al sabato del villaggio almeno una volta per raccontarci di questa sua ultima avventura. Enrico Ruggeri, ciao. Grazie, Enrico. Grazie, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Cattivo, l'hai anche concluso il libro, perché tu proprio l'ultima frase, frase titolo, di certo sì. Andrò controcorrente, così guardi un po' al futuro, perché io sono stato più cattivo. Non ti sei fatto sconti qua dentro? No, ma infatti in realtà la frase è un pezzettino di una mia canzone di un po' di anni fa, sono stato punk prima di te, sono stato più cattivo. Però mi sembrava un buon titolo, anche perché sì, è una biografia anche impietosa. Anzi, la Mondadori la definisce un memoir narrativo, che mi piace di più perché è più così esotica come parola. In realtà è fatta di una serie di ricordi abbastanza cronologici. Sì, devo dirti che è bello così sentirti raccontare dei tuoi inizi, del tuo passato, delle cose, della lotta per diventare Enrico Ruggeri, non solo per diventare Enrico Ruggeri, la star che conosciamo, ma anche per diventare l'uomo Enrico Ruggeri. Beh, sì, quella è stata anche la cosa più faticosa, perché non completata ancora. Perché... Grazie al cielo, grazie al cielo, perché sì. Questo va riconosciuto. Però ci fa capire quanto c'è dietro la nascita di una vita così di grandi successi e di grande intensità. Beh sì, naturalmente, quanto c'è dietro ogni vita, nel mio caso è una vita particolare, insomma un po' segnata, ma voglio dire, non sto qui a dirlo, tutti abbiamo avuto la vita segnata da qualcosa. Io ho raccontato le mie, anche perché spesso, insomma, da grandi disavventure nasce l'abbrivio per costruirci sopra qualcosa, no? Talento e rabbia, Falco Talento Gabbiano. Ma sì, la rabbia nel mio caso è sempre stata un motore, devo dire, la voglia di reagire a delle ingiustizie che mi sembrava di avere subito nella vita è stato sicuramente trasformato, almeno questo si può dire, in energia positiva. Quanto ci hai messo a scriverlo, tu che sei abituato a raccontare le vite degli altri? Come l'hai scritto? Non tantissimo, ci avrò messo un mese e mezzo, un paio di mesi, intervallati naturalmente da concerti, dalle mie sortite qui a Radio 24, da tante altre cose. Però nel momento in cui ho deciso di farlo, sono partito abbastanza in maniera spedita, ecco, e il più era decidere di farlo. E come, ma c'avevi gli appunti, i diari? Come fai? Perché ti ricordi tutto, ci sono le date. Io ho buona memoria e poi ho questa abitudine di scrivere tutte le volte che ho fatto i concerti, perché l'avevo iniziata quando dicevo, beh, perché mi è piaciuto tantissimo il quaderno dei concerti. Mi è piaciuto tantissimo. Sì, ecco, da lì sono partito, anche perché in realtà per certi versi, insomma, la mia vita è sempre stata una serie di intervalli tra un concerto e l'altro, che poi sono la parte più piacevole di quello che io ho fatto. E quindi tutto gira attorno al quaderno, al famoso quaderno dei concerti, che nel frattempo sono diventati una decina. Non ti è venuta la tentazione alcune cose di edulcorarle o di non raccontarle? Perché hai raccontato anche cose che insomma non ti mettono in una luce proprio d'angelo, eh? Ma no, però insomma se scrivi devi scrivere. Io ho iniziato a scrivere perché la cosa mi faceva star bene, lo dico sempre che consiglio a tutti di scrivere, anche a quelli che non pubblicheranno libri, cioè nel momento in cui metti su un foglio di carta determinate cose di te stesso e queste cose diventano più chiare. E quindi è una buona terapia. Insomma, io non sono mai andato in analisi e mai ci andrò, non perché non ne abbia bisogno, ma perché ritengo che certe porte non vadano aperte più di tanto e che comunque sia proficuo canalizzare i propri disagi in qualcosa di costruttivo, che per, nel mio caso sono state le canzoni. È più facile raccontare dei propri successi o dei propri insuccessi? Ma è più popolare raccontare dei propri insuccessi, cioè se racconti delle cose che vanno bene in qualche modo ti devi schermire, perché non puoi stare troppo a menarla, come dite voi giovani, ho vinto qua, ho preso il disco di platino là, eccetera eccetera, mentre invece in qualche modo c'è più captatio benevolenza nel raccontare degli insuccessi, perché in qualche modo c'è chi dice che i veri amici si vedono nel momento del trionfo, no? Diversamente da altre teorie, nel senso che quando le cose vanno male, una pacca sulle spalle, un invito a cena e due paroline carine te le sanno dare tutti. È quando le cose vanno molto bene che vedi quali sono gli amici che sono in grado di godere delle tue soddisfazioni senza invidiarti, senza provare disagio. Anche se per chi fa un mestiere come il tuo, quando le cose vanno molto bene lavorativamente rischi di rovinare le cose, le altre cose importanti nella vita. Eh sì, perché quando le cose vanno bene lavorativamente fai tante cose, quindi non ci sei mai dove dovresti essere, quindi ti fai dire: sei arrivato tardi, guarda, è già morto, sei arrivato tardi è già nato, sei arrivato tardi e ci sono già sposati e cose di questo genere. Quindi in realtà la croce delizia è questa, che più cose hai da fare e meno ti puoi occupare dei tuoi affetti. Nella tua trasmissione Il Falco e il Gabbiano racconti, no, i colpi d'ala, racconti le accelerazioni improvvise, racconti le cadute. Tu quante volte senti nella tua vita di aver avuto quei colpi d'ala? Ma in genere a posteriori, nel senso che nel momento in cui sei in battaglia non ti accorgi particolarmente né dei crolli né dei trionfi, no? Togliersi i sassolini, tu a volte fai dei nomi, io sono rimasta lì perché a volte racconti di una persona che ti ha detto una cosa cattiva o e a volte appunto facendo nomi e cognomi. Ma bisogna, questo, io vivo in un mondo nel quale regna sovrana l'omertà, dove ci sono, insomma lo sai benissimo, ci vivi anche tu, quindi dove delle persone con una incredibile disinvoltura ti fanno un complimento, girano l'angolo e dicono a qualcun altro la cosa esattamente opposta di quella che ti hanno appena detto. E quindi insomma in qualche modo ogni tanto il mio senso della giustizia mi ha anche messo un po' in imbarazzo, perché certe volte dei nomi li ho fatti. Le persone che ti stanno accanto, che ti vogliono bene, l'hanno letto? Ma lo stanno leggendo, l'hanno letto. Cioè non sì, hai insomma. Paura insomma di... Ma devo dire no, perché saggiamente, non l'ho fatto scientemente, ma in realtà io mi sono fermato al 2003-2004 per vari motivi. Intanto perché chiaramente sei più a tuo agio di parlare di persone che sono morte, perché in qualche modo non hai la microvigliaccheria di non doverti confrontare, no? Racconti di tua madre e di tuo padre e loro non possono confutare nulla o non possono rimanerci male per nulla, perché se non ci sono più. E per contro mi sono reso conto a un certo punto che non avevo più il necessario distacco. Cioè io so assolutamente, almeno a mio giudizio, quali sono le cose belle e brutte che ho fatto, i dischi belli, i dischi meno belli, le cose azzeccate più o meno, fino a un certo periodo. Se mi chiedi un giudizio su un mio disco, un mio libro di 3 anni fa, francamente non sono in grado di dartelo, perché è troppo legato al contingente, e questo vale anche per le persone. Quindi in qualche modo la maggior parte delle persone che mi vogliono bene adesso non compaiono troppo in questo libro, perché parla di fatti avvenuti quando loro non c'erano. Anche perché poi ti chiedono conto se lo fai. Appunto, sì sì. Esatto, attenzione. Hai parlato di Sanremo più volte, sì. E hai anche raccontato dei retroscena che hanno fatto un po' di scalpore e hanno tirato fuori qualche titolo di giornale. Ad esempio un Sanremo, un podio che ti è stato... Un podio sfumato. Sì, un podio sfumato. Poi ti sei fermato al 2003, quindi non parliamo di altri podi sfumati. Sì, esatto. No, non ne no. parliamo. Ma, sì, poi in realtà oggi... Che poi vuoi dire, la storia ritorna. Ma non diciamo niente. Come no? Però diciamo che intanto oggi il processo mediatico è molto bizzarro, perché tu dici una cosa a un giornalista, il giornalista la scrive più o meno correttamente, quello che fa il titolo esaspera quello, certo, che ha scritto il giornalista, certo. Il sito che è alla ricerca di click scrive la frase ancora più altisonante, quindi è finita. Ruggeri spara a zero su Sanremo, eccetera. Poi leggendo il libro, insomma, non è che Ruggeri strafatto spara a zero su Sanremo. Esatto. In realtà non è così, semplicemente insomma è evidente che se parliamo di Festival di Sanremo, primo, questo benedetto premio qualcuno se lo deve portare a casa. Fortunatamente la musica non ha nulla di oggettivo. Se facciamo una gara di salto in lungo, tu salti 6,20 m e io 6,18 m, tu sei oggettivamente stata più brava di me ed è giusto che arrivi prima di me in classifica. Nella musica, grazie a Dio, non avviene così. Quindi in qualche modo qualsiasi tipo di premio nato da un festival dove concorrono delle canzoni è un premio soggettivo e non oggettivo. Quindi è chiaro che se metti la giuria in un convento di suore vincerà Tizio, se la metti in un centro sociale di panca bestia vincerà Caio, questo è il concetto. Tu giudizi sfumati mai, sei sempre piuttosto lapidario, e i tuoi giudizi sulla musica di oggi e sulla discografia di oggi sono piuttosto netti, cioè sei molto polemico nel libro. Ma non molto, dai. Sono spesso... Forse polemico non è l'aggettivo giusto, sei piuttosto critico però. Ma sì, sono critico, ma in realtà io sono un privilegiato perché io ho avuto tutto dalla musica, parlo come ascoltatore, perché vengo da un periodo nel quale qualsiasi genere ti piacesse c'erano i numeri uno. Se ti piaceva il rock c'erano i Deep Purple, i Led Zeppelin, se ti piaceva il rock più sofisticato c'era David Bowie e Lou Reed, se eri un fricchettone c'erano Crosby, Stills, Nash & Young o i Beach Boys, se eri politicizzato c'era Bob Dylan e via discorrendo. Per cui insomma è evidente che se ti piaceva la dance, eri un tamarro, c'erano Kissing the Sunshine Band o Sylvester, che oggi sarebbero, o Barry White, che oggi sono dei geni rispetto a quelli che fanno ballare oggi. Quindi in realtà io sono stato molto privilegiato e quindi la mia asticella è altissima, e quindi è evidente insomma che e non ho parlato dei grandi cantautori, per cui è evidente che oggi senti testi fatti da analfabeti funzionali che scrivono di microcosmi. La tocca pianissimo. No, perché se tu scrivi io stavo bene con te, poi tu sei andata con lui, quindi soffro, vuol dire che hai letto pochi libri e che hai una gamma di intervento mentale bassissima. E oggi i testi e le canzoni, ammesso che serva ancora scrivere dei bei testi in una canzone, sono questa cosa qua. E la musica spesso è pop rock, quindi grandi groove di batteria, pad, tutta roba finta, insomma, non mi interessa. Sono quindi, curiosa... Ecco, la risposta sì. Non è non mi piace, è non mi interessa. Non mi interessa, mi piace molto. Sono curiosa di sapere se invece qualcosa delle cose nuove che ci sono in giro ti piacciono, al di là del fatto che il libro si ferma. Insomma, sono veramente poco informato, cioè sono poco propenso alla curiosità per quanto riguarda la nuova musica, e quindi faccio fatica, cioè direi delle cantonate che qualcuno potrebbe smentire e avrebbe ragione lui. 234 pagine, se tu avessi una bacchetta magica in questo momento e ti dicessero una cosa la puoi riscrivere, ma non nel libro, nella vita. Bene, la vita, ma sai, come dice Morandi, e l'ho anche scritto, le cose vanno come devono andare. Quindi se basta che cambi una virgola della vita di una persona e cambi la vita di migliaia di persone attorno a lui. È chiaro che a volte probabilmente mi sono fidato delle persone sbagliate, mi sono entusiasmato per persone che non dovevano suscitare così grande entusiasmo, ma credo che questo valga veramente per tutti, insomma chiunque di noi può compilare una lista di persone delle quali si è fidato e in realtà non avrebbe fatto bene a star più attento. Anche nelle donne, perché ogni tanto ci sono così pagine dedicate. Ma le donne mi sembra di essere stato molto signore, perché ho evidenziato le mie colpe e non ho mai raccontato colpe altrui, che ci sono, però mi sembra di essere stato un gentiluomo. Sì, dai, sì, posso dire che sei stato gentiluomo, dai, sì. Io nel libro ho messo tutti i post-it e guarda, ce n'è uno nel quale c'è un cuoricino, perché c'è una pagina importante, sì, perché... Ma poi mi dici qual era. Poi ti dico qual è, te lo dico dopo, durante la pausa. Ma è vero che sei stato più cattivo o tutto sommato, ma... Beh, sono stato sicuramente determinato, insomma, è partita male la mia vita, quindi con un po' di disastri da ricostruire non miei, e quindi in qualche modo insomma si fa fatica, sono uno che ha fatto fatica e che ha raccontato delle sconfitte e grazie alle sconfitte che ha raccontato ha vinto altre cose. Devo confessarti che una delle cose che mi sono piaciute più di questo libro è che a volte ci sono delle spiegazioni diverse di tue canzoni che abbiamo amato molto e adesso le ascolto con tutt'altro spirito, perché alcune frasi ho capito ora cosa volevano dire, perché tu non ce l'avevi, ci facevi credere altro, invece c'era sotto qualcos'altro. Qualcosa, sì. Ma non posso raccontarvi nulla, Enrico Ruggeri, Sono stato più cattivo, edito da Mondadori. Un Enrico Ruggeri molto molto molto tosto, sono contenta di averlo conosciuto anche sotto questa luce. Grazie Enrico, ciao. Il sabato del villaggio. Le navi salpano, le spiagge bruciano, selfie di ragazze dentro i bagni che si amano. La notte è giovane, giovani vecchi, parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco il mare, un'aquila reale. Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi vento. E non ci penso più, e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento, le prendo. Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Beh, tormentoni estivi, questo è proprio forse uno degli ultimi due della settimana, perché poi l'altro lo ascolteremo più tardi, un pezzettino per tenerci così aggiornati su tutti i tormentoni, anche perché l'avevamo detto la settimana scorsa o due settimane fa, perdo il conto, con Paolo Giordano, poi faremo un po' il bilancio di quello che è per noi il vero tormentone. Dai, estate, tendenze estive, facciamo un po' un riassunto di tutte le tendenze in fatto di cose buone, di belle cose da mangiare, buone cose da mangiare, da bere, belle abitudini. Lo facciamo come sempre con il nostro gastronauta che torna ancora oggi insieme a noi al Sabato del Villaggio, Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao. Ma sai, io mi ero preparato a parlarti dei locali dove mangiare all'aperto. Allora, ieri sera però ero in un bellissimo locale che c'ha un giardino stupendo a Mantova, al Cigno, della famiglia De Martini, e nessuno voleva mangiare in giardino. Come tutti no? Tutti volevano mangiare dentro, perché in giardino non si poteva mangiare dal caldo. Ah, perché che c'era troppo caldo. Terribile. Allora io mi ero preparato alcune cose a Milano, io le do perché magari succedono nei prossimi giorni. No, anche perché adesso, allora, io vedo che, lo chiedevo prima a Cristian Goldoni, se secondo lui sta per piovere, perché vedo che sta diventando un po' grigino, quindi secondo me rinfresca, Davide, ho deciso che rinfresca. Allora io voglio dare a Milano, perché Milano, insomma, la città dove si cerca sicuramente di mangiare al fresco, e c'è un locale che si chiama Al Fresco proprio, è uno dei locali che ha un bellissimo giardino. Allora devo dire che io darò alcuni locali e dirò anche a chi sono consigliati.

Il melone sardo è quello che dura più di tutti, è molto, diciamo che a settembre si può ancora mangiare, perché ha una elevata capacità di conservazione e si mantiene anche per un paio di mesi. Quindi alcuni lo considerano un melone invernale. Bene, poi ce ne sono anche altre delle sottospecie, però credo di aver fatto un quadro abbastanza esauriente del melone. Come fare per sceglierlo? Ecco, ti chiedo solo questo, poi diamo la linea alla pausa, ma voglio sapere come lo scegliamo senza sbagliare. Innanzitutto deve essere molto pesante. Anche se piccolo deve essere pesante, annusatolo dalle due parti, deve già emanare un po' di profumo, quindi... Però devo dire che non è una scienza esatta. Di solito sono queste due regole che tengono presente anche i nostri venditori di frutta e verdura. Allora, caro Davide, ti ringrazio tantissimo per questa finestra estiva. Io mi sono presa un sacco di appunti sulle mete per mangiare all'aperto, perché io sono fiduciosa, sento che si sta per rinfrescare il clima, sono praticamente sicura. Permettimi di augurare a tutti i nostri radioascoltatori una buona estate. Grazie Davide, io ringrazio Davide Paolini per essere stato con noi in tutti questi sabati del Sabato del Villaggio, sperando di ritrovarlo al più presto. Grazie al nostro gastronauta, ciao Davide. A presto. Io ringrazio appunto Davide Paolini per tutti questi consigli al Sabato del Villaggio. Una brevissima pausa e poi parleremo di tecnologia. Sì, di tecnologia. Il Sabato del Villaggio. È un altro dei tormentoni del periodo. Però prima di parlare di quello che ci serve in estate per quanto riguarda la tecnologia, fatemi usare un mezzo pubblico per fini privati. Cioè, Daniele Bellasio che mi telefona, si arrabbia perché non gli rispondo al telefono. Daniele, sono in onda? Ma non lo so io. E poi scrive su Twitter che non gli rispondo al telefono, sono in diretta. Vabbè, dopo saremo insieme in RadioTube. Vabbè, un disastro. Mi telefona mentre sono in diretta, ma dico io, soprattutto mentre sono in diretta con Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Dico io. Ma infatti. Dico io. Cavoli, ma guarda, ma che lancio anche degli oggetti. Allora, Enrico, estate, caldo, anche se l'ho già detto a Davide Paolini, io sono convinta che sta per rinfrescare, è una mia previsione meteorologica, non ne so assolutamente nulla, ma sono convinta, lo sento nell'aria che rinfresca. Tecnologie, prima estate. Poi rinfresca, non c'è dubbio. Vedici statisticamente prima o poi. Sì. Cioè, o ci incendiamo e diventiamo come il sole, però pare che ancora per 4 miliardi di anni il sole vada avanti, quindi... La calma di Enrico Pagliarini. Allora Enrico, estate e tecnologia, che cosa ti suggerisce? Dunque, io ho fatto i compiti partendo da questo presupposto, che d'estate ci muoviamo un po' di più. Poi dipende, esatto, cioè, ci muoviamo un po' di più. Non tutti vanno in destinazioni calde, però tendenzialmente si va verso il caldo, anche perché c'è caldo un po' dappertutto, tranne in alta quota. Allora, la prima cosa che anche per esperienza personale consiglierei di avere se uno va in vacanza, oltre al telefono di cui parliamo tra un minuto, il tablet. Mi sembra una buona soluzione sia per leggere, perché dallo smartphone non si legge mai benissimo. Il tablet è una buona soluzione. Io devo dire, da quando ho il mio fantastico iPad non ho più il computer portatile. È ovvio che in alcuni casi, non posso dire che nel 100% dei casi io sia non mi manchi il computer portatile, però direi che nel 90% dei casi il tablet mi è sufficiente per quello che devo fare quando sono in mobilità. Poi ho ovvio che quando uno è sulla scrivania davanti al computer è tutto un'altra io cosa. Lo uso veramente tanto, lo sai, io il tablet lo uso tantissimo. Però sai cosa? È un primo consiglio. Sai per cosa non si può usare? Adesso magari era uno dei tuoi consigli. Se voglio leggere in spiaggia, posto che io non sono una grande amante della spiaggia, ma se voglio leggere in spiaggia. Allora, sì, l'alternativa è l'ebook reader, però devo dire che l'ebook reader è consigliato, posto che costa ormai anche molto poco, però è consigliato per i grandi lettori. Certo. O comunque sì, se uno deve leggere in spiaggia, ovviamente, anche se i nuovi tablet hanno dei sistemi antiriflesso abbastanza sofisticati, per cui, insomma, sono stati fatti dei miglioramenti. Però direi che per le esigenze di un sacco di persone, e se uno non ce l'ha, questo è un acquisto che... io consiglio. Non stiamo parlando di prodotti che costano poco, perché stiamo parlando di prodotti che costano alcune centinaia di euro. Il tablet più diffuso in assoluto e di maggior successo è l'iPad. L'iPad, ce n'è una nuova versione, costa da 400 e qualche cosa euro in su. Quindi, cioè, resta il più diffuso l'iPad, anche se ce ne sono molti Android. Sì, ci sono un sacco di Android, però diciamo che il prodotto di maggiore successo nel mondo dei tablet, devo dire che l'iPad mantiene un successo abbastanza elevato. Nel mondo degli smartphone sappiamo benissimo che Android ha più o meno l'80% del mercato, dipende poi dai paesi. Allora, parliamo di telefoni. Allora, io consiglio di lasciare da parte per i periodi di vacanza lo smartphone solo quando ne abbiamo necessità e usare un vecchio telefono oppure comprare un nuovo telefono ma vecchio stile. Ultimamente abbiamo commentato l'arrivo sul mercato del Nokia 3310, che è un prodotto, un vecchio successo di Nokia che è stato ripresentato sul mercato. Costa 60 euro, però ricordo che sul mercato ci sono dei telefonini che fanno solo i telefonini, che costano 15 euro. La verità è che così capite che Enrico Pagliarini non si fa i selfie e non passa l'estate a aggiornare i social. No, proprio non mi interessa. No. Ecco. No, infatti io sconsiglio di utilizzarlo, perché così uno può stare più tranquillo e soprattutto questi telefoni permettono di avere una durata della batteria che, diciamo, che non ci interessa nemmeno quanto dura la batteria, perché dura quello che è necessario, dura anche alcuni giorni, una settimana. Questo non vuol dire che non dobbiamo avere lo smartphone serve per alcune cose, che ne so, dobbiamo consultare una mappa, dobbiamo fare una prenotazione, dobbiamo guardare le previsioni del tempo. Però utilizziamo lo smartphone, ma solo ogni messaggistica tanto, messaggistica online, quindi WhatsApp, Telegram. Sì, certo, ogni tanto, però non abbiamo l'assillo che magari abbiamo durante l'anno. Cioè, quando siamo in vacanza, lasciamoci delle pause. Vero. Per comunque alimentare tutti gli aggeggi che noi abbiamo, perché comunque queste cose le abbiamo, ce le portiamo anche in vacanza, consiglio di avere due cose. Allora, un alimentatore con il pannello solare, perché quando siamo veramente in emergenza, non abbiamo molte alternative, il sole c'è praticamente sempre, possiamo scegliere fra un alimentatore per pura emergenza, quindi pochi euro, 15-20 euro nel momento dell'emergenza, dobbiamo ricaricare qualche cosa, lo smartphone, il telefonino, abbiamo questa fonte di energia. Oppure possiamo spendere poco di più, ma non tanto di più, 50 euro, 40 euro, prendere un prodotto un po' più potente, costruito un po' meglio, più efficiente, che magari ci permette di alimentare anche più di un prodotto. Ottima tuttavia idea. Tuttavia consiglio di avere sempre una batteria supplementare o in alternativa, cioè se ce l'abbiamo sempre carica in alternativa al pannello solare, diciamo così, oppure in abbinata, perché col pannello solare possiamo caricare o ricaricare anche la batteria supplementare, che poi magari ci viene in aiuto di notte quando non c'è il sole. Queste sono due soluzioni che costano molto poco, ci sono tantissimi tipi di prodotti. Ricordiamo che la batteria supplementare per scegliere è un po' come avere una tanica d'acqua. Ovviamente più grande è, più acqua abbiamo, quindi più grande e più potente è la batteria supplementare, più energia a disposizione abbiamo. Prima di lanciare la pausa ti chiedo sempre la cosa che ti chiedo sempre, dove leggiamo il numerino per capire quando è grande? Milliampere. Milliampere sono l'energia che c'è a disposizione. Più, allora, diciamo che se compriamo una batteria che ha gli stessi milliampere del nostro telefonino, abbiamo più o meno una carica corrispondente al nostro telefonino. Ok, andiamo a vedere il numerino dei milliampere. Io ogni volta che devo comprare qualcosa, no, siccome non me lo ricordo, io ho il privilegio di poter telefonare Enrico Pagliarini e dire quando non sono in onda. Esatto, ecco, almeno tu. ma ti pare? Vabbè, lasciamo perdere. perdere. Esatto. Vabbè, pausa. Allora, pausa, traffico. Enrico Pagliarini è molto più preparato. Pausa, traffico, poi ancora insieme, a tra pochissimo. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Il sabato del villaggio. Concediamoci ancora un paio di minuti, perché poi dobbiamo parlare del cinema in uscita questo fine settimana con Franco D'Assisi. Enrico, ancora un consiglio su tecnologia ed estate. Sì, due o tre veloci. Allora, il primo è, premetto, non sto scherzando, se possiamo prendiamoci dietro una borsa termica per lo smartphone. Vero. Allora, lo smartphone, anche recentemente, purtroppo mi sono dimenticato lo smartphone sul cruscotto dell'automobile, e lo smartphone mi ha detto: guarda che per adesso mi fermo, non funziona perché la temperatura è troppo elevata. Visto che questa cosa succede molto spesso durante l'estate, cioè o di lasciare il telefono al sole o di lasciarlo in una posizione dove c'è molto caldo, se noi possiamo avere un luogo o appunto una borsa termica dove lo smartphone rimane ad una temperatura, questo ovviamente basta anche uno zainetto all'ombra, non esageriamo, però se uno la porta per tenere, che ne so, la bottiglietta d'acqua al fresco o qualcos'altro al fresco, potrebbe infilarci dentro anche lo smartphone. Due app, la prima, se andiamo soprattutto in montagna, c'è un'app molto utile del soccorso alpino che si chiama GeoRescue, GeoRes con la Q finale. È un'app che in caso di emergenza ci geolocalizza precisamente. In montagna ovviamente è più difficile portare i soccorsi, e questa sicuramente potrebbe essere una cosa utile. Se andiamo all'estero invece, la Farnesina, il Ministero degli Esteri, ha un'applicazione molto utile, un servizio molto utile, che è anche un'applicazione che si chiama Dove siamo nel mondo? Registratevi se andate all'estero, soprattutto in paesi non facilissimi. Vero, importantissimo. Grazie Enrico, soprattutto questa cosa dei pannelli solari non la sapevo ancora, quindi quella la metterò assolutamente in pratica. Grazie Enrico Pagliarini, al prossimo sabato. Poi ovviamente consigliamo il super podcast di 2024, come sempre. Adesso parliamo di cinema. Sognare, ricercare l'ignoto, inseguire ciò che ci affascina. È già questa una ricompensa. Un uomo non dovrebbe accontentarsi di ciò che ha, altrimenti che senso avrebbe il paradiso? Dammi la mano. Voglio scoprire una città perduta. Ciò che cerchi è infinitamente più grande di quello che la tua mente può arrivare a comprendere. È il tuo destino. E come sempre a quest'ora, anche in questa stagione un po' più calda, anzi ben più calda, andiamo a sentire quali sono i film che sono usciti questo fine settimana in sala. Dopotutto al cinema c'è anche l'aria condizionata. Parliamo di Civiltà Perduta. Cos'è? Lo chiediamo al nostro super esperto Franco D'Assisi. Ciao Franco. Sì, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo di Civiltà Perduta perché è il grande ritorno di un genere che negli ultimi anni si è visto poco, e quando si è visto è stato molto contaminato da altri generi. Un esempio, La Mummia, per esempio, che è ancora nelle sale, sta andando bene nelle sale, è un film d'avventura che però è contaminato di horror. I Pirati dei Caraibi è un film d'avventura che però diventa un po' un cappa e spada. Ecco, questo invece è il film di esplorazione. Civiltà Perduta è il classico film di esplorazione, la storia della conquista di una terra misteriosa e mitologica come l'Eldorado. È una storia vera, tra l'altro, quella di un esploratore degli anni 20 inglesi, Percy Fawcett, che fece più missioni in Amazzonia e scoprì piano piano tracce sempre più consistenti dell'esistenza di questo Eldorado. Nell'ultima delle sue missioni portò dietro con sé anche suo figlio, però poi lì nell'Amazzonia scomparve, da lì non se ne ebbero più tracce, e questa storia ha stregato James Gray, il regista, che ha messo insieme un cast importante che va da Charlie Hunnam, che è nei panni appunto dell'esploratore, a Robert Pattinson, a Sienna Miller, per raccontare appunto una conquista, ma anche per raccontare come succedeva già allora e succede un po' anche adesso, la comunità geografico-scientifica fosse restia ad accettare quelle che sembravano delle panzane di un illuso, di un visionario, quando invece si trattava di qualcosa che avrebbe cambiato anche la percezione di quelle terre d'Amazzonia. Un film perfetto sotto il profilo della regia, delle immagini anche molto suggestive, al quale forse manca un po' di anima, cioè non c'è mai quello scatto emotivo che magari porterebbe lo spettatore spettatore a stare ancora più avvinto alla, alla pellicola. Però se vi piace il cinema d'esplorazione, il cinema d'avventura, sicuramente questa settimana è la proposta che fa per voi. Ma questo fine settimana è anche quello dei Transformer. Franco, cosa facciamo? Andiamo a vederli questi robottoni? Il ritorno dei robottoni, dei Transformer, alla loro quinta tappa nella saga, che è una di quelle di maggior successo degli ultimi anni. Transformers 5, l'ultimo cavaliere, firmato da Michael Bay, specialista del cinema ad alto tasso di effetti speciali, e devo dire in questo caso sono straordinari. Sarà anche perché ho avuto modo di vederlo nello splendore dell'IMAX, quindi con davvero una efficacia dell'immagine sconvolgente. Detto questo, però, se andiamo un po' più dentro il film, che racconta una storia che nasce tanti anni fa, nel Medioevo, fra i cavalieri della Tavola Rotonda, impegnati in una battaglia che sta per far capitolare Britannia, e nella quale gli inglesi vengono salvati appunto da dei medievali Transformers, potremmo dire. Michael Bay sembra dirci che tutto nasce da lì e che l'ultimo cavaliere del titolo lo dobbiamo ritrovare proprio nella nostra contemporaneità. E lì la storia diventa quella che conosciamo, i protagonisti a partire da Mark Wahlberg sono quelli che conosciamo. Certo, un pochino il film diventa più prevedibile, più scontato, il ritmo infernale imposto da Michael Bay diventa anche troppo, e quindi un pochino la cosa si dilunga. Tenete conto, stiamo parlando di un film che dura le sue belle 2 ore e mezza, e nella seconda parte del quale le cose sono un pochino faticose, anche se vogliamo. Allora l'effetto speciale ti travolge, forse ti travolge anche troppo. Qualche spunto di simpatia c'è, qualche cameo nobile, da Stanley Tucci a John Turturro ad Anthony Hopkins, che fa qualcosa di più di un cameo, ci sono, per cui sicuramente è il film che è partito meglio al botteghino. Bisognerà vedere quanto riuscirà a ravvivare quest'estate cinematografica. Tra le uscite del fine settimana ce n'è anche una piuttosto particolare, perché parliamo di Claude Lelouch, quindi di cinema d'autore. Come mai? Perché escono dei film del genere in questa stagione? E alla Rosa Purpurea faremo anche un ragionamento sul cinema d'autore e su quanto questo genere possa, questo tipo di pellicole possano essere importanti per popolare, animare le sale cinematografiche d'estate. Una di queste pellicole arriva, sebbene con qualche anno di ritardo, nelle sale italiane, ma ne parliamo perché il film di Claude Lelouch, Salò d'un temps, Bastardo ti amiamo, in italiano Parliamo delle mie donne, è arrivato nelle sale, film del 2014, solo adesso. Però intanto ci è arrivato, la firma di Claude Lelouch è sicuramente una delle firme nobili del cinema francese, la storia di un fotografo di guerra che ha sempre trascurato la famiglia e coccolato la sua macchina fotografica, e che a un certo punto capisce che forse è il caso di tornare alla base e riprendere i contatti, ricostruire un rapporto con le sue 4 figlie, ed ecco le donne del titolo. C'è la delicatezza del tocco di Claude Lelouch, la simpatia, a volte anche la leggerezza, che però non diventa mai superficialità. Un film francesemente, passatemi il termine, lezioso, però un film molto molto gradevole, che può essere appunto quella proposta di qualità in questa settimana. Grazie Franco, dunque l'appuntamento con te e con La Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18. Ciao Franco. Grazie Marta, appuntamento alle 18, La Rosa Purpurea. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il sabato del villaggio. Seconda ora del sabato del villaggio, andiamo rapidi rapidi, andiamo a sentire cosa ci occuperemo nella seconda ora. Beh, i libri del momento con Alessandra Tedesco. Con Costanza Rizzacasa d'Orsogna parleremo di una delle manie dell'estate, ma la scopriremo dopo. Poi torniamo a parlare di serie TV, è da un po' che non lo facciamo. A proposito, i numeri per contattarci: 349-238-6666, SMS e WhatsApp. Sono arrivate un po' di richieste per Enrico Pagliarini, gliele rigiro tutte sulla tecnologia, e poi anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola. Insomma, l'ultimo dei temi di questa prima ora del sabato del villaggio, ve l'abbiamo anticipato la scorsa settimana, cominceremo una serie di viaggi bellissimi, e quindi mettiamoci in cammino e andiamo insieme. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Sempre caro mi fu quest'Ermo Colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Sono versi immortali che tutti conosciamo e abbiamo studiato a scuola. È la toccante poesia L'infinito di Giacomo Leopardi. Il grande poeta marchigiano Doc celebra l'Ermo Colle di Recanati, il Monte Tabor, dal quale vedeva le cime innevate dei meravigliosi Monti Sibillini. Vanto delle Marche, i Monti Sibillini sono la cornice spettacolare di panorami meravigliosi che offrono infinite possibilità a chi li visita. Borghi antichi, specialità enogastronomiche, parchi archeologici e naturali dove lasciarsi trasportare dalla storia e dalla bellezza. Zone perfette per una vacanza di bellissime escursioni immerse nella natura, per chi ama le camminate a piedi o si diverte ad andare in bicicletta. E questa è la prima puntata, ve l'avevamo detto, l'avevamo anticipato la scorsa settimana, di questo straordinario passaggio in Italia. Andremo a scoprire dei luoghi meravigliosi in Italia. Io già sono particolarmente affezionata e appassionata del primo luogo che stiamo per scoprire, ma non lo farete solo con me, perché avrete una guida di eccezione accanto a me per tutti gli appuntamenti con Passaggio in Italia del Sabato del Villaggio, che è Annalita D'Ambrosio. Ciao Annalita. Grazie Marta, ma che presentazione. Vabbè, diciamolo, siamo anche vicine di scrivania, quindi ci conosciamo tra bene, l'altro. E io so bene quanto tu sia una sincera appassionata di viaggi, di spostamenti, è sempre con qualche biglietto del treno, dell'aereo in a tasca, portata di certo. mano e in tasca. Dove ci porti per la prima volta? Ecco, vi porto nelle Marche, che è un territorio bellissimo, e la nostra prima audioguida, che potete gratuitamente scaricare dal nostro sito radio24.it, vi porta in un itinerario molto bello nelle Marche, che sono un territorio straordinario, un territorio però, Marta, purtroppo di recente anche ferito. E allora noi vogliamo cogliere l'occasione per parlare delle Marche lanciando un'iniziativa molto bella che parte domani, un'iniziativa che sicuramente vi consentirà di visitare dei posti straordinari, ma anche di ascoltare della musica straordinaria altrettanto. E quando si parla di musica, ovviamente tu sei anche un po' più preparata di me. Qualcosa sappiamo da queste parti. Marta, parliamo di Risorgi Marche, per la rinascita di questa terra messa in ginocchio dalle scosse sismiche registrate l'anno scorso nel centro Italia. E abbiamo due ospiti in collegamento con noi che ringraziamo: Neri Marcorè, ideatore e promotore, e Battista Tofoni, direttore esecutivo. Buongiorno Neri, buongiorno Battista. Buongiorno, buongiorno. Fantastici. Al lavoro già lacrimente su questo Risorgi Marche. Perché domani si parte. Sì, domani si parte, ma è già parecchio che le truppe cammellate si sono messe in moto, e Giambattista appunto ormai ha perso il sonno da quando l'ho coinvolto in questa cosa, e lui come tanti gratuitamente si sta spendendo. Lo voglio ringraziare pubblicamente e sottolineare questo fatto per questo festival, che appunto si compone di 13 concerti gratuiti con artisti che hanno aderito gratuitamente, e dopo averli contattati, insomma, gli ho spiegato un po' qual era l'idea e tutti hanno detto di sì. Quindi abbiamo poi trovato le date, arrangiato tutte le vari aspetti organizzativi che non sono ancora finiti, ovviamente. Però domani c'è questo debutto con Niccolò Fabi, e il concerto si terrà vicino Spelonga, che è una frazione di Arquata del Tronto, il primo dei comuni marchigiani colpiti dalla scossa del 24 agosto. Poi il 30 ottobre, che è stata quella più violenta, che sostanzialmente ha squassato e ha devastato gran parte dell'entroterra marchigiano, poi non ci sono state vittime per fortuna, ma danni ingenti, enormi. Un territorio, dicevamo, molto bello, Neri, cioè nel quale tu sei nato, ma anche Battista amore. È nato. Battista è nato a Grottazzolina, in provincia di Fermo. Esattamente, sì. Sono nato a Grottazzolina, un piccolo paesino, e vivo ancora lì, nonostante diriga tutti i festival europei da questo piccolo villaggio, chiamiamolo così. Quanto è importante proprio il rilancio da un punto di vista turistico di queste zone? Tanto, però immagino, Battista, che sia stato anche difficile logisticamente organizzare questi concerti. Sì, guarda, è stato difficile, ma la passione, la forza di volontà, ma anche l'entusiasmo, non solo mio, di Neri, Desiree, tutti gli altri, c'è un esercito di persone che sta lavorando. diciamo, l'idea, e ringrazio anche pubblicamente i 13 artisti che hanno aderito alla chiamata di Neri. Ecco, ricordiamone qualcuno, domani parte Niccolò Fabi. Sì, poi avremo Manica Jan, poi Diana Lu, Ron, ve li dico in ordine, Enrico Ruggeri, Paolo Turci, Bungaro, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Brunori Sass, Max Gazzè e per chiudere con il principe Francesco De Gregori con un progetto con gli U Quartet e l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. C'è da trasferirsi nelle Marche per qualche settimana, proprio. Assolutamente, per un mese prendete gli alberghi più vicini ai luoghi, se sono tutti occupati andate verso la costa, insomma, venite a visitare le Marche. Un territorio straordinario, non solo da un punto di vista paesaggistico, passeggiate, bicicletta, cioè ci sono tanti luoghi bellissimi da vedere. Anche enogastronomico molto interessante. Già subito, cioè, si mangia, quindi si beve secondo bene. Me, insomma, trasferirsi per un bel po' nelle Marche non è male. Beh, diciamo, l'occasione offriva anche la possibilità di una visibilità a quelle aziende che abbiamo visto poi subito dopo le scosse magari pubblicarsi nei social dicendo noi abbiamo questa merce che rischia di deperire, quindi hanno messo in vendita delle cose, oppure altre che contavano sul commercio derivante dal passaggio sulle strade, sulle stradine appunto appenniniche, che adesso sono alcune chiuse, comunque c'è molto meno passaggio, quindi molto meno vendita per loro. Allora pensavo che si potesse sfruttare l'occasione per creare queste isole del gusto. Poi la direzione di questo aspetto è stata data da Alberto Mazzoni, un altro nostro amico, direttore dell'Istituto Marchigiano Tutelavini, che è uno degli sponsor poi principali, che appunto potesse gestire bene queste aziende per dar loro l'occasione di una visibilità. Grazie, allora noi invitiamo posso tutti aggiungere al pubblico di armarsi anche di zaino con acqua, insomma qualche vivere, una copertina, perché saranno tutti seduti per terra, così come gli artisti soleranno sul prato, insomma. Ma anche perché io leggo 1:40, 6 chilometri di cui 5 su comodo fondo asfaltato in lieve pendenza e 1 chilometro su strada bianca per domani. Iniziamo col trekking un po' più, diciamo, con la passeggiata un po' più lunga, diciamo, ecco. La verità, normalmente sono tra i 3 e i 4 chilometri. Domani ecco. Scarpe comode. Domani scarpe comodissime. Quindi. Insomma, godiamoci le Marche, godiamoci la musica, grazie a Neri Marcorè, ideatore e promotore di Risorgi Marche, a Battista Tofoni, direttore esecutivo, grazie. Grazie a voi per l'ospitalità e per il rilancio. Grazie e buon lavoro, perché so che ne stanno facendo tanto. Anna Rita, allora... Marta, allora invitiamo tutti quelli che sono all'ascolto non solo ad andare a Risorgi Marche ma a scaricare prima di partire, perché io dico sempre una cosa, sì. Un buon viaggio comincia nel momento in cui uno si documenta sulla destinazione. E allora le nostre audioguide in collaborazione con il Touring Club sono delle audioguide complete che vi danno proprio un quadro preciso della vostra destinazione. Quindi questa settimana visitate le Marche, scaricate la nostra audioguida e la prossima settimana non ti voglio dire nulla, ma ti dico che è una meta sulla quale io sono molto preparata. Ti dico allora solamente già questo. La zona, posso immaginarmela. Voi la scoprirete la prossima settimana. Grazie ad Anna Rita D'Ambrosio, al prossimo sabato. Grazie a voi. Il sabato del villaggio. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. Bella questa atmosfera jazz per aprire la pagina dei libri nel nostro sabato del villaggio, ma perché ascoltiamo questa musica? Non lo so, Alessandra Tedesco mi ha detto prepara qualcosa di jazz e poi ti spiego perché. Ciao Alessandra, perché? Ciao Marta, se ti dico Francis Scott Fitzgerald, tu a che cosa pensi? Al Grande Gatsby? E se ti dico il libro del momento? Non lo so, c'entra col Grande Gatsby, no. Non sarebbe il libro del momento, insomma, visto che esiste da parecchi anni, l'ho presa alla larga stavolta, l'ho presa veramente alla larga. In realtà il libro del momento è l'ultimo thriller di John Grisham, che si intitola Il caso Fitzgerald, pubblicato da Mondadori. Che cosa c'entra Francis Scott Fitzgerald? È subito detto. Perché in questo caso, in questo romanzo, si parla di uno strano furto. Vengono rubati da dal caveau di una università americana 5 preziosissimi manoscritti originali, appunto, di Francis Scott Fitzgerald, che valgono circa 25 milioni di dollari. E quindi chiaramente bisognerà capire chi è che ha commissionato questo furto, chi c'è di mezzo, insomma, chi è che indaga. In questo caso indagherà, verrà, diciamo, presa fra le persone che indagano una giovane scrittrice, Mercer Mann, che è rimasta disoccupata, insomma, evidentemente anche negli Stati Uniti gli scrittori ogni tanto sono al verde, e conosce bene, diciamo, il luogo dove vive un libraio indipendente che, diciamo, è sospettato di essere il mandante di questo furto, perché questo libraio, Bruce Cable, è un appassionato di libri antichi, commercia in manoscritti rari, quindi naturalmente, come dire, i sospetti vanno su di lui. Quindi questa volta il nostro John Grisham, che insomma è conosciuto da tutti come il re del legal thriller, dei nomi a caso, il socio, il rapporto Pelican e il cliente sono suoi, lascia un po' le aule dei tribunali per andare sul mondo editoriale, sul mondo letterario. Beh, che tu conosci bene, quindi mi puoi dire se è così attendibile, se guarda, ci fa scoprire qualcosa del dietro le quinte, diciamo, di questo mondo. Sì, si conoscono alcuni aspetti tipo vizi, manie, virtù degli scrittori, possiamo dire, anche se sono meraviglia. In questo caso americani, non sono italiani, e quindi però insomma alla fine sono internazionali, sono trasversali certi vizi. E poi sicuramente è appassionante perché, e appunto, quando si legge Grisham, tutti gli appassionati di gialli, di thriller, veramente restano incollati alla pagina. Però dovete sapere che non è un legal thriller, perché se siete abituati al solito Grisham che va in tribunale, no, in questo caso dovete cambiare un pochino punto di vista. Vabbè, insomma, gli appassionati di Grisham sperimenteranno qualcosa di nuovo. Ancora consigli, Alessandra? Questa volta, guarda, ho deciso di farti leggere da lontano i titoli e vediamo se riesci a indovinare di che cosa parlano i romanzi. Violetta Bellocchio, che io lo devo confessare, conosco bene. Brava, Violetta Bellocchio. Quindi stavolta sì, sei avvantaggiata. Sì, vabbè, ma insomma, mondo lontano di tanti anni fa di università, insomma, mondo molto lontano. Non lo sapevo, vedi. Mi chiamo Sara, vuol dire principessa. Allora, non so di cosa si parla, la copertina è molto intensa, Violetta è una scrittrice molto particolare, non ho idea. Allora, questo è un romanzo pubblicato da Marsilio. Mi chiamo Sara, vuol dire principessa. La protagonista è una ragazzina quindicenne, Sara, che lascia la vita di provincia di Pavia, se non erro, si trasferisce a Milano, dove praticamente incontra un DJ, Antonio, che la rende una star della musica. Siamo a metà degli anni 80, del 1983, e la rende una, diciamo, star della musica elettronica, anche se lei non sa cantare, non ha alcun in quegli anni lì, succede. Ha alcun talento musicale, però viene lanciata da questo Pigmalione che le inventa completamente una nuova identità. Quindi non si chiamerà più Sara, si chiamerà Roxana. Decide per lei quali gusti deve avere, quali gusti musicali, quali sono stati i primi ricordi nel caso la dovessero intervistare. Fra loro due inizia una relazione d'amore che è anche una relazione di potere fra il Pigmalione e la ragazzina che viene appunto lanciata. Ma Sara è una ragazzina comunque molto determinata, turbolenta, sicuramente con diversi problemi emotivi, ma non è tutto come potrebbe sembrare. Guarda, la musica è un argomento che mi interessa. Violetta è una bellissima firma, ma allora, se questo lo consigli a me, il consiglio è già venduto. Altrimenti, se non è il consiglio per me, a chi lo consigliamo? Guarda, lo consiglio sicuramente a chi ha voglia di fare un tuffo nel passato, quindi siamo a metà degli anni 80, con quelle sonorità, con quelle atmosfere, e per leggere una storia di formazione un po' diversa dalle altre, come se fosse una Lolita degli anni 80. Mi piace moltissimo. Ancora consigli, Alessandra? Parliamo di musica sempre, no? Abbiamo citato la musica elettronica degli anni 80, se ti dico rock progressive. Torniamo indietro ancora un po' di più nel tempo, insomma. Sì, cara Marta, perché questo è un libro che ha a che fare anche con la musica, con il rock progressive. L'ha scritto Pier Sandro Pallavicini, si intitola A Londra con mia figlia, e fra parentesi Harry Styles, pubblicato da ED Tutti. Allora, questa possiamo prenderla come un po' una guida a una Londra diversa, senza che sia, diciamo, una guida dove ti consiglia il ristorante, l'hotel, il monumento da vedere. È una guida particolare per chi dovesse andare in vacanza a Londra, magari quest'estate o anche semplicemente per un fine settimana, può immergersi in questo piccolo libro di Piersandro Pallavicini per scoprire la sua Londra. Lui ci racconta subito che è stato per la prima volta a Londra quando aveva... non lo so quanti anni, però era nel 1971. Non vogliamo fare i conti di quanti anni ha Piersandro Pallavicini. Pallavicini, scusami, ma pensavo tu citassi un'età, invece il mio primo viaggio a Londra risale al 71. Parla molto di musica rock progressive perché lui è un appassionato di questo genere di musica. Va a Londra con la figlia, che insomma è un adolescente, e come dice il sottotitolo, Harry Styles in questo caso è uno dei componenti degli One Direction, che non so se esistono ancora, Marta. Eh no, in realtà gli One Direction si sono, non so se del tutto sciolti, ma Harry Styles è diventato un grande solista con un disco che è andato molto bene. Ah, vedi, quindi insomma in questo libro c'è un confronto generazionale a livello appunto fra padre e figlia, ma soprattutto un confronto generazionale per quanto riguarda la musica. Ma è bello perché insomma Piersandro Pallavicini e la figlia vedono Londra con occhio diverso, ma in fondo con lo stesso sentimento di affetto fra di loro e per questa città. Bello, mi piace molto anche questo. Ma quante cose ho voglia di leggere? Vabbè, me li segno tutti per quest'estate, per tutte le vacanze, le vacanzine. Se devi andare a Londra, allora poco sai, ma sicuro ci torno tutti gli anni, quindi molto molto volentieri. È un modo diverso, sai, di leggere, invece di leggere la classica guida che serve sempre, ce la portiamo, però per entrare proprio nell'atmosfera. Sai che mi piace anche di più, perché magari la guida sì, però magari in un posto in cui sei già stato, non hai bisogno proprio del... E invece... Anche prima di partire a me piace entrare nello spirito con qualche libro che parli del luogo. E allora guarda, questo di Piersandro Pallavicini su Londra ti piacerà. Tra l'altro Piersandro Pallavicini è un autore di romanzi, ne cito un paio, una commedia italiana, La chimica della bellezza, poi c'era stato anche Romanzo per signora, ne avevamo parlato diverse volte, al cacciatore di libri, in questo caso con questo magari da leggere genitori e figli adolescenti. Perché no? Perché no? Gli adolescenti imparerebbero qualcosa della musica di tanti anni fa, Pallavicini, tanti anni fa. Va bene, salutiamo anche lui, poverino, l'abbiamo proprio così, un po', gli abbiamo dato un po' del giro. Vecchio, vabbè, sì, povero Piersandro Pallavicini. Ancora consigli? Io ho citato adolescenti, qua abbiamo, io vedo da lontano sempre, hai qualcosa per bambini, ragazzi? Perché si dice 33 e altre tante altre domande sulla medicina? Anche questo fa per me, perché ho sempre sognato di capire perché si dice 33. Ma lo chiedono ancora i medici di dire non 33? Lo so. Non lo so. A me non succede da milioni di anni. Non di lo anni so, però, possiamo dire così. 33. Allora, questo perché si dice 33, pubblicato da Editoriale Scienze, è stato scritto da Federico Taddia, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, visto che è il conduttore dell'Altra Europa, e Andrea Grignolio. Allora, l'ho trovato veramente divertente e interessante, perché è costruito per piccoli capitoli. Per esempio, che cos'è un'infezione, perché il termometro si mette sotto le ascelle, chi ha inventato le siringhe. Questa è bella, adesso me lo leggo tutto. E ci sono delle domande, delle risposte semplici che i bambini possono comprendere bene. Essendo io un'appassionata di medicina, Marta, forse perché sono un'ex ipocondriaca, devo dire mi è piaciuto moltissimo sfogliarlo e leggerlo. Chiaro che Federico Taddia è un giornalista e un conduttore, mentre Andrea Grignolio insegna storia della medicina alla Sapienza di Roma, quindi insomma ne sa bene di cose, non è così campato in aria, quindi è divertente ma nello stesso tempo serio. Beh, insomma, poi con la firma di Federico Taddia deve essere divertente per forza. Che cos'è il raffreddore? Non lo so, voglio leggere il libro. Va bene, leggilo, vai. Devo leggere anche questo, che meraviglia, quante cose voglio leggere. Invece lì vedo uno di quei libri, faccio lo spoiler, no? Faccio l'anticipazione in radio, vedo uno di quei libri con la copertina molto bella, molto elegante, la copertina dura, mi sembra molto elegante. Che libro è? Il senso di Melissa per le torte. Che chic. Che cosa chic. Scritto da Melissa Forti, pubblicato da Guido Tommasi, editore. Quindi lo capite, dall'editore stiamo parlando di un libro di ricette. te. Questa Melissa Forti, appunto appassionata di dolci, vive e ha vissuto in Italia ma anche all'estero, quindi ci propone diverse ricette di dolci a livello anche internazionale. Allora andiamo assolutamente a caso. Zabaione, vabbè, questa è facile. Meringhe brutte ma buone alle nocciole. Torta ai mirtilli e panna acida. A quest'ora mi racconti queste cose, ma è violenza! Focaccia alla portoghese. Certo che accendere il forno d'estate, accidenti, però insomma. Che meraviglia però. Ma torta, miele, liquore, persichetto. Mi piacciono tutte, Alessandra. La mia è torta molto... di Natale americana, con anticipo, vai! Beh, cominciamo a imparare adesso a farla, magari per Natale ci viene. No. Alessandra, come al solito, questi libri a me piacciono molto, magari per fare dei regali, però ti chiedo quanto costa, perché se uno deve fare un regalo devo sapere se è costoso oppure no. 30 euro. Ma è un regalo medio. Dai, due o tre amici si mettono insieme e regalano. Medio, si può. E poi soprattutto possono ricattare la persona che riceve questo regalo dicendo adesso mi darai la fornitura annuale di tutte le torte. Le provi tutte le ricette e me le fai assaggiare. Che ti ho regalato il libro, voglio le torte. Il senso di Melissa per le torte. Ultimo consiglio, quello del cacciatore di libri. Quando, Alessandra? Guarda, tutti i sabati mattina alle 6:30, in replica alle 22, ma c'è già il podcast online, quindi potete già andarlo a sentire. Ciao Alessandra, baci. Il sabato del villaggio. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fallo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist. Allora, io la stavo cantando col microfono spento e sono nata un po' dopo questa canzone, che è ben più vecchietta di me. Alzo gli occhi e vedo che è in regia Roberta Frisani, che è ancora molto più giovane. Anche lei sta cantando Guarda come dondolo di Edoardo Vianello. Però, insomma, diciamolo, nell'immaginario, nella memoria degli italiani di qualsiasi generazione c'è questa canzone, ce la sappiamo tutti a memoria. Magari non ci ricordiamo tutte le parole, però forse sì, ce le ricordiamo, perché è una canzone veramente che abbiamo cominciato a ascoltare da bambini e ci tiene sempre compagnia, è carina, è divertente. Ma perché Guarda come dondolo? Ma perché per la prima volta nella sua carriera Edoardo Vianello è approdato nella Billboard, la classifica ufficiale della musica americana, e lo ha fatto grazie a una serie TV che io adoro, che si chiama Master of None. E vorrei proprio parlare di questa serie TV e di questo regalo che il creatore e attore della serie TV Aziz Ansari ha fatto alla musica italiana e all'Italia. Vabbè, adesso ne parliamo e vi spiego perché. Vorrei parlare un po' di questo successo musicale italiano, ma anche di questa serie deliziosa, con un collega bravissimo di TV Sorrise Canzoni, Francesco Chignola. Ciao Francesco! Ciao, ciao! Eccolo qua, chiocciola Checkoz, così lo trovate anche sui social. Checkoz con tutte le K, Checkoz con 3K. Esatto. Esatto, no, perché sennò non ti trovano. È notizia clamorosa questa, cioè... Sì, effettivamente è una bella curiosità. Adesso... racconto un po' per chi non conoscesse la serie, due cose per far capire, inquadrare in che modo è stata utilizzata questa canzone, perché ha un peso anche nella storia. Ecco, il protagonista di questa serie, interpretato appunto da Aziz Ansari, si chiama Dev, è un aspirante attore, conduttore televisivo, insomma un aspirante uomo di spettacolo, però che però ha un'altra grande passione, quella per la pasta. Lui alla fine della prima stagione lascia New York, lascia l'America, si trasferisce in Italia, a Modena, per studiare come fare l'apprendista, insomma, quello che fanno la pasta. Esatto, quelli lì. E qui conosce questa ragazza che è interpretata da un'attrice italiana, Alessandra Mastronardi, poi torna a New York, torna alla sua vita, al suo lavoro normale, eccetera, però questa ragazza gli rimane un po' nel cuore, e questa ragazza però, per motivi suoi, va a trovarlo a New York. Si incontrano, fanno una cena, lui invita a cena, e dico, ti invito a cena e faccio la pasta. Mettiamo su della musica, e lei gli dice no, ti faccio sentire io una canzone, e mette su Guarda come dondolo, e poi gli dice guarda che questa canzone qui non è che si può ballare in qualunque modo, bisogna fare il twist, adesso ti faccio vedere, e gli insegna a fare il twist, una scena molto carina che ha a quanto pare interessato moltissimi americani, perché appunto la Billboard l'ha messa in questa classifica particolare, che è la classifica delle canzoni più scaricate, cercate, shazammate dagli americani, tratte dalle serie TV. Fantastico, quindi gli americani che guardano la serie TV hanno cercato, oppure hanno usato appunto Shazam, che è questa app che ti permette di riconoscere, cioè che fa sì che il tuo telefonino riconosca una canzone solo ascoltandola, ti dice nome, titolo e autore. E tutte le informazioni, esatto. E hanno cercato proprio questa. Sappiamo che 15.000 persone hanno cercato Guarda come dondolo, che comunque non... Questo piccolo è una bella cifra, ma soprattutto che durante il mese di maggio, cioè, anzi dal 12 maggio quando è uscita la serie, fino alla fine di maggio, la canzone è stata ascoltata in streaming una cosa come 100-120.000 volte, in America, e non da persone che la conoscevano già. Certo. Quindi, insomma, un piccolo exploit per un artista che nella sua lunghissima carriera aveva visto di tutto, fatto di tutto, è conosciuto un successo insomma grandissimo che tutti noi ricordiamo, ma questa cosa non ce l'aveva nel curriculum e adesso può dire di averla, perché comunque quando sei nella Billboard, sia nella classifica Latin o la World oppure TV o serie TV, comunque puoi scrivere sul suo curriculum, sono stato nella classifica americana. È una medaglia che non ti toglie nessuno. Master of None, serie di Netflix che a me è piaciuta moltissimo, l'ho trovata divertente ma anche poetica, ma anche molto dolce, perché appunto la storia di questo dev stranissimo, comico, artista, appassionato di pasta e appassionato d'Italia, ha tante cose belle. Poi trovo che l'Italia che ha deciso di raccontare è forse per la prima volta lontana dagli stereotipi degli americani. Cosa ne pensi, Francesco? Allora sì, ha voluto un po' giocare sugli stereotipi, nel senso che il primo episodio di questa seconda stagione è girato in bianco e nero ed è ispirato molto lontanamente a De Sica, insomma, al neorealismo, e quindi un pochino c'è il bambino magari con la canotta, che bambino napoletano con la canotta a Modena magari non ce ne sono tantissimi, dire, per strada, però insomma per il resto direi che comunque possiamo dire che si è informato, cioè. Sì, ecco, diciamo che non c'è Firenze, Venezia, Roma, le gondole, ma già Modena, che infatti io ho detto al nostro Enrico Pagliarini, che è modenese, gli ho assolutamente consigliato di andare su Netflix e guardarsi tutta Master of None, perché io ho trovato veramente delizioso questo affresco di Modena. Tra l'altro, Guarda come dondolo non è l'unica canzone italiana, perché la tracklist che è stata scelta è davvero molto molto carina. C'è anche Mina, c'è anche Lucio Battisti, insomma ci sono dei brani molto carini. Allora io volevo chiedere un'altra cosa al nostro Francesco Chignola, perché io mi sono persa un po' per strada con Twin Peaks, invece so che lui sta andando avanti a vederlo, però come avete potuto notare dal fatto che sto parlando da sola senza fermarmi mai, è cascata la linea. Adesso ci sono, cioè Christian Goldoni in regia, che sta provando disperatamente a ritrovare il nostro Francesco Chignola chiocciola Checkoz, anche perché appunto io vi avevo parlato tanto di Twin Peaks, ero tutta così entusiasta del fatto che Twin Peaks fosse ritornato dopo tanti anni, e poi mi sono un po' persa per strada, anche perché ho guardato questa Master of None e mi sono un po' innamorata di Master of None e ho guardato questa. Allora facciamo un ultimo tentativo di recuperare Francesco Chignola da Sorrisi e Canzoni, ma soprattutto credo che sia al lago, quindi so che è un po' la linea, è insomma un po' da recuperare. Io guardo in regia se mi dicono che l'abbiamo recuperato. Non l'abbiamo recuperato, allora do anticipiamo il traffico? Fantastico, allora anticipiamo il traffico, cerchiamo di capire se riusciamo a recuperare Francesco Chignola, anche perché appunto volevo chiedergli di Twin Peaks e volevo anche capire se aveva visto già questa Glow di Netflix, che è appena stata lanciata, è stata lanciata ieri sera, io già mi sono guardata 3 episodi, mi piace tantissimo, volevo chiedere a lui cosa ne pensa. Allora facciamo una cosa, cominciamo a mandare il traffico, una breve pausa e poi cerchiamo di recuperare Francesco, oppure cominciamo ad anticipare l'ultimo ospite, l'ultimo blocco del Sabato il Villaggio. State con noi, sorpresa, tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. Stavo perdendo fiato perché abbiamo ho fatto davvero una tirata di monologo sperando di ritrovare Francesco, che abbiamo ritrovato ma che ci è ricascato. Allora cerchiamo di recuperarlo comunque prima della fine della puntata. Se non lo recuperiamo, lo richiamiamo sabato prossimo, perché appunto io sono rimasta in sospeso con Twin Peaks e quindi vorrei sapere come sta andando la serie David Lynch. Ce l'abbiamo qualcosa per introdurre il prossimo ospite? Ce l'abbiamo, allora introduciamo. Oggi paradiso costa la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento. Sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso. Allora, qua siamo dei, com'è che si dice, giocolieri? Perché abbiamo Christian Goldoni dall'altra parte del vetro insieme a Roberta Frisani, che chiamano, alzano, abbassano cursori, mi dicono chi c'è, chi non c'è. Forse abbiamo trovato Francesco Chignola. Francesco! Sì, ero caduto in un enorme buco nero. Forse è Twin Peaks che mi fa questo. Esatto, anche perché Francesco nel frattempo mi ha scritto un WhatsApp e io ti stavo scrivendo via WhatsApp, ma mi hanno detto che ti hanno recuperato e quindi ce la facciamo. Vabbè, ma noi, ma sì, ho fatto tutto un monologo sulle canzoni di Master of None, che guarda, hai detto che c'è un episodio che si chiama Amarsi un po', che è una cosa che mi ha lasciato sconvolto. Amarsi un po', bellissimo. E, l'uso di Mina, che mi è piaciuto tantissimo. Sergio Endrigo, Canzone per te. Canzone per te all'inizio di un episodio. Insomma, guardatevi questo Master of None, perché abbiamo capito che ci è piaciuto molto. Allora dimmi se Twin Peaks vale la pena, perché ho detto, io mi sono un po' persa, tu però invece sei, come dicono gli appassionati di serie TV, in pari. Sono in pari, sono sotto di brutto, anche come dicono i giovani d'oggi, forse non lo dicono più da un bel pezzo, non lo so. No, in realtà guarda, non sono molto attendibile. Twin Peaks è una delle proprio grandi passioni della mia vita. E per me a me non sembra vero che stia succedendo tutto questo. Quindi qualunque cosa faccia Lynch, in questo caso io sono contento, anche se e sta facendo un po' quello che gli pare, nel senso che succedono per ora non è tutto molto chiaro quello che sta succedendo, però non mi stupisce. Esatto, però i primi episodi erano un po' più scioccanti, perché i primi due o tre episodi, perché c'era proprio tanta videoarte, c'era Lynch quello degli ultimi anni, Inland Empire, cioè quello pesante, proprio comprensibile, onirico, così. Invece negli ultimi, diciamo, due episodi sta dando molte più soddisfazioni a quelli che si aspettavano una continuazione della trama della vecchia serie. Nell'ultimo episodio addirittura io non posso dirti di più, però c'è una cosa che c'è una cosa che non dimmi non senza c'era, dirmi c'è una cosa che nella vecchia serie era sparita. Ok, non si sapeva dove era finita, e adesso la rivediamo, la ritroviamo. Degli oggetti, però non posso dirti di più. Comunque, io sono contentissimo, sono già malinconico che abbiamo visto 7 episodi su 18, ne mancano solo... Addirittura, cioè hai già la nostalgia anticipatoria? Sì, perché dico, poi adesso finisce questa cosa. E poi devi aspettare altri 25 anni, perché devi vincere, esatto. La vedo durissima. Durina, sì, sì. Hai già assaggiato un po' di Glow, questa nuova serie di Netflix ambientata nel wrestling femminile anni 80, che già detto così è già un non vedo l'ora. Non sono riuscito perché è uscita solo ieri e purtroppo la paternità mi impedisce di essere sempre sul pezzo della notizia, sì. Però la prima cosa che faccio quando mi trovo davanti uno schermo è spararmi questa serie, perché pare che sia una delle più belle dell'anno, e c'è un'attrice strepitosa come Alison Brie, che è ha fatto parte del cast di Community, ma anche di Mad Men, una bellissima ma anche bravissima attrice. Guarda, io ne ho vista una ieri sera prima di andare a dormire e una e mezza questa mattina facendo colazione. Bello, mi sta cominciando a piacere. Anni 80, donne forti come piace spesso a Netflix. Vabbè, voglio sapere poi cosa ne penserai tu, mi devi assolutamente dire appena la vedi, perché per me il parere di Francesco Chignola è praticamente vincolante. Fa giurisprudenza. Grazie mille. Dai Francesco, goditi il piccolone che sta diventando grande, perché l'ho visto su Instagram e sta diventando, era un bambino piccolo, adesso sta diventando un bambino grande, e grazie per essere stato con noi, un abbraccio. Ciao Marta, ciao, buon pomeriggio. Allora, che meraviglia, siamo riusciti a recuperare Francesco Chignola, perché ve l'ho detto, io non guardavo più Twin Peaks perché mi ero un po' persa, niente, ma mi ha rimesso voglia di vederlo. Allora, abbiamo già ascoltato il pezzo che avevo pensato per introdurre il prossimo ospite, che è un'amica del Sabato del Villaggio ma anche di RadioTube, insomma a volte la chiamiamo nelle prime due ore, a volte la chiamiamo nella terza ora, perché allora con lei parliamo spesso di fenomeni di costume ma anche di fenomeni della rete. Il brano di prima era Tra le granite e le granate, qui siamo più sul fronte granite che sul fronte granate, anche se non sono esattamente granite. Allora, vi racconto un retroscena. Ci stavamo smessaggiando un po' su Twitter qualche tempo fa perché lei ha svelato di avere una passione per alcune ricerche su Instagram. Cioè, su Instagram cosa cerca, cosa cercava, cosa adora cercare Costanza Rizzacasa d'Orsogna? Ciao Costanza! Ciao, ciao! Allora, confessa, qual è la tendenza, la follia del momento? Noi parliamo spesso dei fenomeni del momento, la tendenza del momento su Instagram per Costanza qual è? Allora, complice d'estate sicuramente sono le infused water, cioè sono le acque aromatizzate. Perché mangiamo e beviamo con gli occhi, Instagram ce l'ha dimostrato, e appunto complice questo momento, siamo tutti a dieta e da qualche anno c'è questo fenomeno delle acque aromatizzate e non ci piacciono più, perché siamo sempre alla lotta all'ultima caloria, non ci piacciono più quelle che sono in commercio, che sono anche deliziose, vengono in queste bottigliette così piccole, carissime, poi peraltro, però possono essere, possono avere degli ingredienti nascosti, insomma, che non ci piacciono, e adesso impariamo a farcele da sole. È il fenomeno delle infused water, che funziona con l'infusione. L'infusione estrae principi attivi, aromi, immergendo quello che vuoi, quindi frutta, erbette, eccetera, in un liquido, in questo caso l'acqua. Allora, sono anche belle da vedere, per questo, per questa mania che noi abbiamo recentemente di ormai abbiamo già consolidato da un po' di fotografare il cibo, sono perfette per i social network. Sono perfette, infatti secondo me il fenomeno c'è da qualche anno, era con un altro tipo di, con un altro processo, in un processo che schiacciavi col pestello la frutta, quello è sparito quasi subito perché si vedeva che l'acqua diventava subito opaca, non era un bel vedere, quindi non era neanche un bel fotografare, la frutta schiacciata in acqua ovviamente non è bella da vedere, e nell'evoluzione, insomma, diciamo, sia salutista, perché anche la frutta contiene calorie, ma sia soprattutto, diciamolo, è Instagram, l'evoluzione è stata l'infusione, dove la frutta rimane intatta, l'acqua a seconda dei tempi di infusione colorerà più o meno del colore del frutto che hai scelto, e farà questo bel ensemble che sarà bellissimo fotografare e postare, e avrai tanti like, tanti commenti, ah lo posso fare pure io, ah come si fa, in realtà è facilissimo, tutto parte dal fatto, Cagnola, che io non so cucinare, volevo anch'io postare qualche cosa. Hai allora, cercato la cosa. Sono diventata intrepatissima. Eh certo, perché sennò uno deve imparare a cucinare, perché come hai scritto tu sul colonnino amoroso nel Corriere, non so se era il colonnino amoroso o un'altra rubrica, ma insomma tu scrivi dappertutto, cucino, posto e butto il cibo su Instagram, ormai si cucina per postare su Instagram. Esatto. E vabbè, tu hai trovato questa scorciatoia per cui invece di cucinare fai l'acqua aromatizzata e fai bella figura. Ti posso arrivare pure io, ecco, così ho qualcosa, no? Che... Fantastico. Dai, ma allora scusa, visto che è la tendenza del momento, tanto che appunto su Corriere, cioè alla fine queste cose su cui poi sordiamo poi sono diventate doppia pagina, perché davvero è la mania. Eh sì, è davvero la mania. Gli ascoltatori che non ci credono... facciano qualche ricerca, perché ormai è la mania in rete, fotografate dappertutto eccetera, ma siccome ormai per fotografarle, per far bella figura su Instagram hai anche imparato a farle, dimmi qual... scusa, a questo punto dimmi qual è la tua preferita. Allora, Secondo me, visto l'orario, potremmo consigliare ai nostri ascoltatori una ricetta che non avevo messo sul Corriere, ma è quella di replicare il gin tonic. Oh, perché a quest'ora, allora, fa fighissimo fingere di avere in mano un gin tonic. Allora, il punto è che quando si è a dieta non puoi certo c'è Roberta dall'altra parte del vetro che ride. Ma no, ma Roberta, ma quanto sarei così? Cioè, no, sai che aria da dura col gin? Io se bevo un sorso di gin tonic finisco per terra. Però se lo facciamo finto, poi mi instagrammo subito. Allora, Costanza dice... No, il punto è, parte dal fatto che il gin chiaramente è un distillato. È un distillato, quindi viene ottenuto tramite macerazione di una miscela di erbe, spezie, piante, eccetera, i cosiddetti botanicals. Allora, tra queste sono le bacche di ginepro, che danno proprio il nome gin al gin, e poi la scorza di limone e altre cose. Quindi la chiave nel fare un gin tonic non alcolico è cercare proprio di replicare quella miscela che dà, quella miscela di erbe che dà quel gusto lì. Allora, nella mia personale situazione ho trovato che la cosa migliore è il pompelmo. E quindi io metterei 3 pompelmi, poi la scorza di un limone, 8 bacche di ginepro, prendi un po' di cardamomo e un rametto di rosmarino, e soltanto per questa volta è consentito usare un'acqua minerale gassata, una buona acqua. Poi li metti in un contenitorone, sì, e li lasci riposare? E li lasci riposare, sì. È optional che tu usi il ghiaccio, però in questo periodo secondo me il ghiaccio è proprio fondamentale. Se non usi il ghiaccio, assolutamente importante fare l'infusione in frigorifero, perché l'acqua calda, a temperatura ambiente, rovina subito gli ingredienti, lo vedi immediatamente. Così è molto meglio, aspetti un po' di più, perché chiaramente se fai l'infusione in frigorifero devi aspettare un po' di più, però ecco, non si scatenano tutti quei batteri che insomma rendono la tua acqua, anche perché queste cose, visto che sono, al contrario delle bottigliette eccetera, tutte naturali, andranno chiaramente consumate in un tempo abbastanza ristretto. Il tempo minimo di infusione per tutte queste acque è almeno 2 ore, però si va anche a 4-6 ore. Ed è importante poi usare degli accorgimenti, per esempio toglierai la buccia, soprattutto se stai usando un agrume, perché ti renderà l'acqua amara, e tante altre cose. E poi le foto su Instagram, quelle sono fondamentali. Poi, visto che tu devi aspettare per consumare quest'acqua, ecco, le foto invece puoi farle via via che si colora, puoi fare tutto il processo, è anche divertente, no? Fantastico. Quando prende un colore leggermente rosato e poi quello più color lampone, insomma, e dà soddisfazione alle persone come me che non sanno cucinare, non sanno replicare nulla, dà tantissima soddisfazione. E poi effettivamente magari stai seguendo una dieta e quindi non ti puoi permettere, è una piccolissima golosità, 2 calorie, 3 calorie, e ti sembra di un contentino, insomma, una cosa straordinaria. E facciamo anche grande bella figura in rete, come adesso va di moda. Grazie a Costanza Rizza Casa d'Orsogna per essere stata con noi. Ciao Costanza. Ciao, arrivederci. Ma non è finita qui, perché adesso GR e poi Radio Tube, a tra poco.